X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Tutti i ministri degli esteri dell'Unione Europea per le vittime del naufragio nel canale di Sicilia hanno fatto un minuto di silenzio. Ancora silenzio. Dovrebbero fare un anno di casino in Europa. Direttive su tutto. Invece sulla messa a terra degli esseri umani l'Europa non sa che minchia fa. E se in Europa sta per fallire una banca, c'è la Merkel che esce di casa di corsa, si infila in aereo, va da Hollande e risolvono tutto in mezz'ora. Come possiamo definirla l'Europa? Quell'insieme di nazioni fondata sull'unica parola comune a tutti, le banconote. Stai pur certo che 950 milioni di euro sul fondo del mare non ci finirebbero mai. Perché l'Europa ci lascia da soli? Ecco, una bella domanda anche dopo l'incontro di ieri a Bruxelles. Regina Catrambrone, imprenditrice calabrese, sposata con l'americano Christopher Catrambrone, insieme hanno comprato una nave di 40 metri, trasformandola nella prima imbarcazione di salvataggio finanziata da privati, che da Malta interviene per cercare di evitare altre tragedie nei mari. Ecco, ieri al Consiglio straordinario ha sentito sull'immigrazione, si sono aumentati un po' i fondi, ma di fatto l'Italia resta sola, è così? No, io ho sentito che sì, ci sono stati un aumento, hanno triplicato i fondi sì. Per la missione Triton e Poseidon e ci sarà quindi una cooperazione internazionale tra i paesi europei. Ci sono stati alcuni stati come la Gran Bretagna che ha deciso di mettere degli elicotteri a disposizione delle navi, però non ha fatto altro. Ecco, però con Triton al posto di Mare Nostrum la situazione è molto peggiorata? Non è che è peggiorata, è che la missione Triton e la missione Poseidon come mandati non hanno, cioè la ricerca e soccorso è molto limitata. Loro sono dei controlli delle frontiere. E voi come intervenite? Noi interveniamo, noi siamo una ONG che è stata fondata l'anno scorso, adesso solo con sede a Malta, però abbiamo iniziato a fare la documentazione per avere sedi in altri posti europei. Noi ci posizioniamo in acque internazionali dando le nostre coordinate ai centri di coordinamento. Quindi loro sapranno sempre dove siamo. Dove trovarvi? Ma nel frattempo, sì. Dopo la vostra iniziativa, davvero clamorosa, nel frattempo si sono aggiunti altri privati come voi alla vostra iniziativa o no? Come noi, con questa sorta di equipaggiamento, non credo, perché noi abbiamo una nave di 40 metri, due gommoni veloci e due droni con i quali pattuglieremo nella ricerca, per la ricerca e soccorso delle acque, un'area preaccordata. E qual è la vostra area di assistenza? Noi siamo in acque internazionali. Ogni giorno? Siete in movimento continuamente? Partiremo il 2 di maggio adesso e poi ci saranno fatte delle missioni come l'anno scorso di 15 giorni. Naturalmente questo dipende anche dai salvataggi. Naturalmente. Con l'arrivo dell'estate prevede un aumento degli arrivi. È naturale questo, sì. È naturale perché se lei fa le statistiche del primo trimestre del 2014, da gennaio a marzo l'anno scorso, purtroppo abbiamo visto morire in mare 14 persone, ma quest'anno da gennaio a marzo oltre 500 persone certo. Sono morte in mare. Ma voi quante vite siete riusciti a salvare con questa iniziativa privata veramente meritoria che fate voi? Noi l'anno scorso con 60 giorni in mare siamo riusciti a cooperare al salvataggio di 3.000 persone. Più della metà, quasi 1.500 e qualcosa, sono stati proprio in nave, sono stati caricati sulle vostre navi, sulla vostra nave. Sì. Le altre sono state, abbiamo utilizzato le nostre forze, i nostri gommoni per trasbordarli dalle loro carrette a navi italiane. Sì. Voglio dare il sito che è www.moas.eu. Noi stiamo raccogliendo fondi perché ancora non riusciamo a stare in mare per un periodo che vorremmo più lungo, quindi se c'è certo. La possibilità di fare una donazione, no. Per certo. Favore fatelo. 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS. Con Giampaolo Musumeci, un giornalista, fotografo, videoreporter e autore con Andrea Di Nicola del libro Inchiesta Confessioni di un trafficante di uomini. Con lui abbiamo già parlato, ma per scrivere il libro lei ha incontrato i trafficanti di uomini. Ecco, che differenza c'è tra quelli che gestiscono i barconi che arrivano ogni giorno, ne abbiamo sentito parlare, sulle nostre coste e quei trafficanti? L'universo del traffico di migranti è enorme. C'è lo scafista, che è quello un po' nel mirino di tutti, anche del Consiglio d'Europa, ma che mi sembra il target sbagliato. E poi c'è il grande organizzatore, c'è quello che sta dietro le linee, che magari sta a Tripoli. Il grande trafficante non si imbarcherà mai, non rischierà mai la vita, non fa il lavoro sporco. Perché dice sta a Tripoli? Beh, perché stanno in Libia, perché stanno ad Asmara, perché stanno a Istanbul, stanno al Cairo, stanno a Islamabad, stanno nei grandi hub, nei grandi punti di smistamento. E gli scafisti sono degli impiegati dell'ultimo livello della catena? Esattamente, sono i manovali. Stanno al grande trafficante come il piccolo pusher sta al grande trafficante di droga. Ecco. E quindi anche questo indirizzare tutti i nostri sforzi e anche il lessico, no? Anche il lessico giornalistico, guerra agli scafisti, è sbagliato perché ci distoglie dal vero problema. È finto, cioè è superficiale ed è solo emotivo. Sì, esattamente. Sì. Lo scafista non è il male assoluto. Qua bisogna andare al cuore del problema, che i trafficanti di uomini, i trafficanti di migranti, forniscono ai migranti, ai rifugiati, ai richiedenti asilo, il servizio, esattamente quel servizio che l'Unione Europea non è in grado di dare, cioè espletare la richiesta di asilo, che è un diritto internazionalmente riconosciuto e riconosciuto anche dalla Costituzione italiana. Cioè, dove c'è un vuoto, l'assenza degli stati e dell'Europa, si infila la criminalità. Perché il siriano spende $10,000, il somalo spende $10,000 per fare cosa? Per arrivare in Europa e chiedere diritto d'asilo. È come se la criminalità desse quella risposta istituzionale che invece l'istituzione non riesce a dare. Il viaggio può essere diverso a seconda delle disponibilità economiche, poi? A seconda delle disponibilità economiche, a seconda della rotta che si sceglie, a seconda del trafficante che si sceglie. Purtroppo in Libia il mercato dello smuggling, il mercato del contrabbando di migranti è totalmente fuori controllo. È come se fossero saltate tutte le leggi. C'è troppo denaro potenzialmente facile, si annusa questo denaro, allora c'è lo smuggler, il contrabbandiere, il trafficante, lo scafista amatoriale che ha una barca e la butta in mare, ci sono le milizie che odorano il business e si accodano o danno protezione o entrano direttamente nel business. Quindi esistono anche trafficanti di lusso che organizzano viaggi di lusso? Assolutamente sì, è l'opposto del viaggio low cost, no? Cioè quando un migrante o quando un rifugiato ha a disposizione una grossa quantità di denaro, correrà molti, molti meno rischi. E sono molti? Ma le posso portare questo esempio. Noi abbiamo incontrato un trafficante pakistano che lavora in Italia e che riesce a far arrivare pakistani. Il viaggio costa $8,000, €8,000 circa ogni migrante. Lui ne fa arrivare circa 600 l'anno in Italia con un escamotage basato sui permessi stagionali di lavoro. E lui ha detto, come me ce ne sono tanti, ce ne sono decine. Queste persone quindi hanno i numeri sono numeri importanti. I numeri sono importanti, purtroppo quello che stiamo vedendo in queste ore, queste tragedie, che sono tutte annunciate ed erano tutte prevedibili. Ma nessuna affrontata. Perché noi siamo maestri dell'emergenza, l'Italia lavora esclusivamente sull'emergenza. E mi lasci sottolineare un'altra cosa. Prego. I trafficanti di uomini, le reti che fanno il traffico di migranti, sono molto organizzate. I trafficanti si parlano fra di loro, fanno affari, si prestano denaro, fanno outsourcing, per usare un termine di, come dire, aziendale. Certo. Cioè hanno tutte quelle caratteristiche che l'Europa non ha. L'Europa, ognuno fa di testa sua sui richiedenti asilo. Soprattutto nessuno fa quasi niente. Nessuno fa quasi niente, ma non volevo essere così netto e cinico. Non ci parliamo tra di noi, non c'è cooperazione di giustizia internazionale, non abbiamo una politica comune verso l'immigrazione. E a tutta questa disorganizzazione, il traffico nel suo complesso risponde con una grande organizzazione. Certo, quindi questo discorso che sembra cinico è il discorso di verità invece. Ma insomma, voglio dire, adesso non voglio fare il vate, il profeta, noi abbiamo cercato di restituire una realtà che fino a quel momento era totalmente nascosta e ignorata. Naturale. Abbiamo interrogato, parlato con 12 trafficanti, abbiamo parlato con magistrati, con poliziotti che si occupano del fenomeno. Quello che emerge è questo, sono tante reti che fanno affari fra di loro. Noi, un trafficante egiziano ci ha detto: se tu mi chiedi chi è il più forte, il più grande boss nel mio lavoro, vuol dire che non hai capito niente. Lui ha detto: siamo in tanti, ci aiutiamo e facciamo business insieme. Ma quando arrivano questi yacht, per esempio, come fanno a evitare i controlli della Guardia di Finanza nei porti? Allora, se facciamo riferimento in particolare all'escamotage degli yacht di lusso, sì, per fare un esempio, che arrivano dalla Turchia, che è un po' l'opposto anche dal punto di vista visivo, no, di questi barconi. Certo, infatti, per questo glielo chiedo. È l'opposto dei cargo fantasma, che sono ipervisibili. Non è un caso che i cargo fantasma fossero pieni di richiedenti asilo, mentre magari negli yacht ci potrebbero essere migranti, chiamiamoli economici, anche se è una definizione un po' odiosa. Come fanno ad arrivare? Arrivano di nascosto perché lo yacht di lusso non li controlli tutti, soprattutto nella stagione estiva, perché si mimetizzano perfettamente nel mare Egeo, no? Certo. Assieme a tanti altri turisti. A tanti turisti. Ma adesso si parla, proprio in questi giorni, in queste ore, si parla di ipotesi di distruggere i barconi prima della loro partenza. Le sembra una cosa che ha senso o no? No, così, detta così mi sembra totalmente insensata. Perché? Non riesco a capire come fanno a distinguere un peschereccio da un barcone. Come fanno a controllare che la notte prima uno smuggler, un trafficante, non abbia appena acquistato o rubato un peschereccio per il viaggio? Mi sembra una soluzione, a parte che potrebbe portare a problemi di conflitti, di tutti ci ricordiamo, insomma, gli incidenti avvenuti in Albania negli anni 90, no? Non sono sicuro che sia la soluzione giusta. Poi qualcuno mi dovrebbe spiegare come li andiamo a distruggere, con i droni, con i bombardamenti, ma mi sembra un'ipotesi militaresca che non corrisponde al reale. Ecco, no, dottor Musumeci, ma vista la sua esperienza, per chiudere, ci sarebbe secondo lei un modo per fermare questo traffico di uomini? Sì. Quale? Allora, la situazione è molto complessa, però cercherò di ridurla con pochi punti. Alcuni punti forse sono usciti, insomma, dal Consiglio europeo. Allora, innanzitutto bisogna smettere di pensare di lavorare sull'onda dell'emergenza, bisogna pianificare le cose. Ci vuole una missione di salvataggio perché continua, tipo Mare Nostrum, ma targato Unione Europea. Sì. Quelli che dicevano che Mare Nostrum faceva servizi ai tassisti sono stati smentiti in queste ore. Certo. I migranti partono lo stesso, semplicemente se non c'è Mare Nostrum muoiono. Il blocco navale non può funzionare perché si configura a tutti gli effetti come un respingimento e non possiamo respingere richiedenti asilo. Quello che dobbiamo fare noi è cercare di fare in modo, spuntare le armi ai trafficanti, è il senso del decalogo che abbiamo scritto io e di Nicola per togliere le armi ai trafficanti, cioè dare la possibilità ai richiedenti asilo di farlo il più possibile vicini al luogo da cui stanno scappando. Dobbiamo parlare con Turchia, dobbiamo parlare con Tunisia, dobbiamo parlare con l'Egitto, dobbiamo fare in modo che loro non paghino per esercitare un loro diritto. Bisogna fare politica. La politica dovrebbe essere lungimirante, dovrebbe avere delle visioni di lungo termine, la politica dovrebbe fare accordi con i paesi, ma accordi in cambio di sostanziosi aiuti economici, far crescere il Mali, far crescere il Niger, non dimenticare la Somalia, una nostra ex colonia. Questi discorsi sembrano terzomondisti e intrisi di utopia. Sono la realtà. Io vi chiedo, ma che benefici avremmo in termini di salvezza di vite umane, stabilità economica, sicurezza? E sviluppo anche, e anche sviluppo. E quindi, sì, ha ragione lei, è utopico, ma la politica proprio dovrebbe fare queste cose, avere quelle visioni di lungo termine. Se non si ha visione non si può fare politica. Ecco Mario, la visione a Bruxelles ieri non mi pare che sia uscita, ci scrive Domenico da Udine, ci hanno fatto sostanzialmente l'elemosina, dite la verità. Ma neanche quella in realtà, perché il vertice è sicuramente un mezzo flop dal punto di vista politico, dal punto di vista diciamo della sostanza c'è sì un aumento dei fondi per Triton, sì, chiamatelo come volete, metteranno più mezzi, resta però il tema dell'asilo, cioè certo, nessuno vuole prendersi carico di queste persone, esatto, questo problema, e quindi è un nulla e di fatto. E quindi un po' di mancia, tu Pietrangelo che nel dici? Nel vuoto della politica la decisione deve supplire, a maggior ragione in uno stato di eccezione. Io credo che l'unica strada sia politica, innanzitutto, e cioè che l'Italia deve avere la consapevolezza A, di non avere sovranità alcuna, B, di prendersela per un'iniziativa che protegge se stessa, C, intervenire non certamente nell'opzione militare, ma attraverso un'operazione di intelligence, lavorare affinché questa rete di business criminale, qual è quella dei trafficanti d'armi, possa essere sgominata attraverso l'eliminazione, uno dopo l'altro, così come si è fatto nella storia della criminalità mafiosa, così come si è fatto sempre attraverso un'operazione che solo i servizi segreti possono fare. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Hai guadagnato più tu a conoscere me che io a conoscere te. Guarda, non ti chiederò neanche di tradurre. Io, solo io che ho trovato questa casa. Io che ho comprato tutto. Sì, con i miei soldi. Dimmi solo che ho fatto di tanto tradimento. Non sei tu. Sono io, è colpa mia. È solo che hai sposato la donna sbagliata. Non esisto. Ora torniamo in casa. No, non posso. Non ci sono vittorie in queste cose. Soltanto gradazioni di sconfitta. Tu che ne pensi? Che cosa vuoi? Potendo... che cosa chiederesti? Io voglio il divorzio. Guardate ragazzi, che è un passo molto importante quello che state facendo. Divorziarvi non è una cosa facile. Primo motivo: mia moglie ha un carattere insopportabile. Io? Ma se vado d'accordo con tutti i suoi amici? Ecco, questo è il secondo motivo. Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista tra i primi in Italia. Ecco, con solamente 28 voti contrari, il divorzio breve è diventato legge. È cambiato il paese? È cambiato il paese, ma su un compromesso si buttano tutti, perché secondo me è un compromesso, una perché? Cosa civile. Perché in concreto cosa cambia? Allora, intanto una soluzione civile sarebbe stata quella di proporre in un paese laico come il nostro il divorzio come alternativa alla separazione. Chi non vuole il divorzio, per esempio tutti quelli che sono praticanti religiosi, cattolici, che non divorziano, potevano continuare a usufruire della separazione. Il divorzio invece per i laici, per quelli che sono stati per poco tempo. Vabbè, però sarà un compromesso, ma un compromesso che è un passo avanti forte. È un passo avanti forte che crea un sacco di problemi. Perché? Qual è il più grande problema che crea, secondo me? Allora, secondo me, per le persone che devono pagare gli avvocati, cioè per i separandi e divorziandi, nel giro di pochi mesi pagare due volte la parcella. Ma poi ci sono tanti problemi. Per esempio, l'assegno di separazione è un assegno di mantenimento basato sui redditi e sul tenore di vita. E quindi? L'assegno di divorzio, invece, è basato sui mezzi che si hanno a disposizione ed ha una natura più assistenziale. Ma mi dica in concreto, faccia due esempi di numeri. In concreto vuol dire che uno combatte per avere l'assegno di separazione basato sul tenore di vita, quindi grande, che poi vale solo 6 mesi, 6, 8, 10, quanto poi ci vorrà per la giustizia, esempio. Quel divorzio cambia tutto. Allora, anche gli avvocati devono cambiare, devono già organizzare la separazione consensuale con una previsione del divorzio per cercare di fare un tutt'uno nel giro di pochi mesi, ma discutere una sola volta con le parti e andare loro anche incontro, quindi separazione e divorzio nei fatti giuridici quasi diventano la stessa cosa, diventano la stessa cosa quando è consensuale. Quando è giudiziale il problema è gravissimo, quando è giudiziale è grosso, perché ci sarà una sovrapposizione di giudizi di separazione e di divorzio. Cioè, facciamo un esempio così ci capiamo. Allora, faccio l'esempio. Io faccio oggi, aprile del 2015, un ricorso per separazione giudiziale. Quanto tempo ci vuole per avere la separazione giudiziale? A quel punto devo avere le udienze, a seconda se posso. No, ma occhio, giudice, quanto eccetera. Ci vuole? Mettiamo che a settembre io ho l'udienza. Però già da aprile, da quello che sembra, perché poi il testo del Senato non l'ho letto, da aprile del 2016, cioè dopo un anno, io posso chiedere il divorzio, mentre ancora è in corso il giudizio di separazione. A quel punto ci sono due assegni da stabilire che sono di natura completamente diversa. Il giudice del divorzio deve ragionare tenendo conto che c'è un giudizio di separazione. Certo, quindi la legge si applica anche alle separazioni già in corso? In corso, sì, si applica. La cosa bella di questa legge è che invece dal primo momento della separazione già si può valutare eventualmente dividere la comunione dei beni, mentre prima durante la lunghezza del giudizio chi aveva di fatto, per la disponibilità dei beni, soprattutto dei soldi, cercava di consumarli, perché bisognava aspettare la sentenza di separazione per poi fare la fotografia dei beni. Certo, ecco, avvocato Bernardini De Pace, per avere accesso al divorzio breve è necessario il consenso di entrambi gli ex coniugi, allora? No. No. Se c'è una consensuale, sì, sì, no, appunto, ma se c'è la giudiziale, ah, beh, no, no, certo, ecco. Si fa un altro ricorso. Come dicevo prima, è questo che succederà, secondo me, e che creerà. Quindi ci sarà un macello enorme, cioè si sovrappongono i due livelli di giudizio, perché i tempi delle due cose sono diversi. I tempi delle due cose sono diverse, ma anche la natura giuridica, perché la separazione è una sospensione dei doveri matrimoniali. Il divorzio è un taglio del vincolo, certo, matrimoniale, dove sopravvive la solidarietà post-coniugale. Quindi un conto è la solidarietà prevista dall'articolo 143 del coniuge, obbligatoria finché permane il vincolo matrimoniale, quindi nella separazione, dove i coniugi devono avere più o meno lo stesso tenore di vita, certo, del matrimonio anche dopo. Un conto è il divorzio, dove c'è soltanto una scia di solidarietà post-coniugale, per cui devi dare l'assegno soltanto se l'altro non ha i mezzi, certo, per vivere in un certo modo. Poi questo assegno può aumentare, non è detto. Vabbè, che è questo, vediamo finito. Casi di ogni genere. Senta, ma è vero, quindi, alla fine, quello che si dice, finisce il matrimonio ma resta il patrimonio? Finisce il patrimonio e resterà il patrimonio in mano a chi è stato più furbo durante il matrimonio. Deve prepararsi. Ecco, senta, anche lei... perché con questa congestione di tempi... sì, si capisce poco. Senta, lei ha dichiarato: l'unico tripudio sarà per le amanti, quelle in lista d'attesa per il nuovo matrimonio. Lo è pensa vero, veramente? Ma è gli vero, uomini, è secondo lei? Mi è venuta subito in mente, perché ecco, ma secondo me a quel punto gli uomini che fanno finta di dire dobbiamo aspettare il divorzio da mia moglie, lunga, non è che si precipiteranno a fare il divorzio. Le amanti tripudieranno, ma gli uomini troveranno il modo di accampare delle scuse, perché quindi bisognerà bisognerà valutare la verità dei rapporti. Bisogna è uno stimolo anche per andare in fondo alla verità dei rapporti. Però io dico che se un uomo vive un conflitto giudiziario difficile con un'ex moglie, magari anche con bambini, eccetera, non so se ha voglia di rinfilarsi di nuovo in un buco nero. Insomma, è la fine del divorzio all'italiana, diciamo. È la fine, veramente. Io trovo che non sia del tutto civile come è stato impostato, ma certamente fotografa una realtà sociale. È un'evoluzione del costume. Profondamente cambiata. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Pubblicità. Mix 24. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien. Questo venerdì? Dove... E allora questo venerdì in metropolitana sono sbucati ragazzi arrivati da Santa Maria Novella, dalla stazione di Firenze, e poi giovani esploratori provenienti dal Tibet e dalla Persia, e poi motoristi giunti da ogni dove, architetti, contadini abili a segnare nel campo, e poi con loro maestranze capaci a fare frutto di liquami stagni, dei luoghi negati dalla redenzione e oggi restituiti ai canali. E poi c'erano giovani e ragazze, ragazze della lingua del sì, e poi dantisti, marconisti, piloti, meccanici pratici di velocità, e tra ruote e ali c'erano poeti, conoscitori delle nuvole più che dei prati, ma anche questi prati, perché il pavimento della metropolitana per metà era di fiori e per l'altra metà colmo di spighe di grano, e tutto intorno la sabbia del deserto, e poi la luna che cambia. La luna cambia, ma non rinnega mai. Ma allora Mario, con le tue bolle dove ci porti oggi? Beh, lui ha citato la velocità, sì. Andiamo a... parliamo di droni, però prima... bel pezzo questo, questi sono i Muse, sono bravissimi, e l'album si chiama Drones. E vai, ci sono i tuoi droni. Ma allora, la guerra di Obama, avete visto, noi parliamo da tempo di questa da molto, qui, dall'anno scorso. Da quando siamo nati, sì, in questa parliamo dei droni. La guerra di Obama con i droni ha i suoi lati oscuri, ovviamente. Sì. Sono morti un italiano e un americano, Warren Weston e Giovanni Lo Porto. Non erano loro l'obiettivo, questa è l'amara verità. Anche i droni sbagliano. Sì, secondo recenti analisi gli Stati Uniti hanno fatto 522 strike, ucciso 3.852 persone, e di cui 476 civili. Quindi... tieni presente che sono stime al ribasso, perché le missioni sono in gran parte segrete. Quindi si scontrano con una realtà che probabilmente è molto più complessa e che propone svariati problemi alla contemporaneità. Dal cioè, punto è precisa di vista... l'arma, ma poi se la indirizzi male, c'è sempre, c'è sempre l'uomo di mezzo. C'è sempre l'uomo di mezzo, cioè l'arma è molto precisa, ovviamente, ma l'intelligence ha dimostrato di no. Per cui oggi leggevo degli articoli terribili pubblicati negli Stati Uniti da importantissime riviste, da Foreign Policy, Foreign Affairs, il New York Times stamattina. Insomma, gli americani non sanno chi stanno ammazzando coi droni. Certo, non è non proprio rassicurante. Non c'è più l'intelligence sulla sul terreno. Sul terreno. Loro hanno una lista di bersagli. Certo, che però il presidente li approva, però se poi i bersagli a terra sono diversi, certo. Ragazzi, eticamente qua c'è un problema di una nuova guerra che ha bisogno di, come dire, di nuovi draft legislativi, nuove regole. Questo è importante. Certo. Salamino. Parole. Solo il caro vecchio varietà può consentire l'esatta interpretazione della dinamica politica. Ed è lei, solo lei, a svegliare dal torpore il vecchio genitore. Intanto è lei. Chi sarà lei? Marina. Marina Berlusconi, primogenita di Silvio Berlusconi, ed è lei il vero drago nel cappello del leader di Forza Italia, sfidando i miti consigli dei pacificatori, due per l'esattezza, Fedele Confalonieri e Gianni Letta. Marina attacca quelle che sono le parole. Ascoltami. Guidato da Matteo Renzi, mi sembra, dice, molto più un governo di parole che di parola. Insomma, il presidente del gruppo Mondadori chiama Lanza e di fronte a questa scena... Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più. Se sposti un po'... Di fronte a questa scena, questa tavola imbandita, detta queste precise parole. Parafrasando Mao Zedong, la politica non sarà un pranzo di gala, va bene, ma mi pare che Renzi abbia il vizietto di avvelenare un po' troppo spesso le portate. La questione è molto ghiotta, perché la sfida di Marina non si consuma solo con Confalonieri e Colletta. Lei giustamente difende il padre, dice il processo Ruby senza prove e senza reato, ma schiaffeggia non poco il fratello Pier Silvio, sempre prodigo di apprezzamenti per il Pier Premier, al punto di dimostrarsi Pier Renzista e Pier Piritollo nelle conseguenze. Ma, come si suol dire, per i nemici non c'è scampo se Marina scende in campo, ed è tutta una questione di cadetti, perché la primogenita lì i conti li vuol risolvere con tutti, ma questi tutti, fratelli e fratellini, si uniranno nel canto e nell'inno di Guascogna, allora la voce. Vieni dalla Spagna, andiamo a Bologna, la pace che tutto il mondo sogna, ognuno l'avrà se questa canzone con noi canterà. Ancora Mario, ancora una bolla veloce. Rapidissimo, vai. i Queen, per dire che c'è il testa a testa nelle elezioni del Regno Unito, 34 a 33, 34 pari, dipende dai sondaggi. Il sondaggio dei sondaggi di The Economist dice che c'è un lieve vantaggio dei laburisti, mancano 12 giorni. Tu che dici? Forse vincono i conservatori, ma non, cioè, dici che vince Cameron? Forse, ma non è, guarda, potrebbe venire benissimo il contrario, perché io dico che vince è Cameron. Tutto sul filo di lana. Conta molto la politica europea in questo caso, sembra incredibile, però per gli inglesi in questo momento conta. Pubblicità. Mix 24. Bene, come ogni venerdì è arrivato il momento di ascoltare i vostri tormenti del cuore, e per chi volesse scriverci, mix24@radio24.it. Sara. È iniziata per gioco, ma la situazione mi è completamente sfuggita di mano. È single come me, alla mia età, è un bell'uomo, ma io sono socia dello studio legale in cui lavoro e lui fa l'elettrauto. Circa 6 mesi fa ho portato l'auto nella sua officina ed eccoci qua. All'inizio è stata una cosa molto fisica, ma presto abbiamo cominciato a ridere, a parlare, ad avere voglia di uscire, insomma, di stare insieme. Dopo molte incertezze l'ho invitato a un aperitivo con gli amici. Non l'avessi mai fatto. Una tragedia. Lui a disagio. Io ancora di più. E come lo guardavano. E come li guardava. Era tutto sbagliato. Anche i più gentili, con quell'aria compassionevole di chi cerca di metterlo a suo agio. Lui ha incassato benissimo. Anche ironico dopo. Io no. Non ce la faccio. All'idea di un'altra serata come quella non saprei proprio come comportarmi. Non vorrei chiudere, ma non posso neanche pensare di rimanere io e lui sempre da soli a causa di una mia insicurezza, di un pregiudizio. E allora? Pietrangelo, e allora? E allora, innanzitutto c'è un errore di fondo. Questo perché le signore o signorine, che dir si voglia, non si attengono alle regole già stabilite dai padri e dai buoni licei classici. E cioè, secondo la legge di Roma, la legge antica, ma anche la legge dell'Ade, e vorrei aggiungere le leggi d'Asia, è la donna a sposare i penati dell'uomo. E quindi che senso ha andare a fare innanzitutto sta cosa degli aperitivi oscena? È un'usanza barbarica. Dopodiché vorrei dire che deve sposare i penati dell'uomo, e quindi invece di andarsene a fare l'aperitivo con questi uomini chic e ste femmine pittate, se ne andasse a prendersi una bella bicchierata con gli elettraudi, con i meccanici, con la gente per bene. E basta quindi con tutto questo voler essere sempre come dentro un film, dentro una sceneggiatura, dentro uno spot. La vita, svegliatevi, è vera. Accidenti. Infatti. Elettrauti. Io direi, ma proprio adesso che vanno così di moda gli uomini del fare, tu te lo lasci scappare? È incredibile. Scherzi a parte, secondo me è pericolosissimo farsi guidare dalle reazioni degli altri. Chissà, forse questa canzone ti aiuterà a riflettere. E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Sorridi quando piove, sei triste quando c'è il sole. Devi smetterla di piangere fuori stagione. Dai, proviamo e poi vediamo che succede. Per ogni mia parte che ti vuole c'è un'altra che retrocede. Sapessi quante ne ho viste di scalatrici sociali. Regalano 2 di picche aspettando un re di denari. Quante volte Mario, Mario, ancora ecco, una bolla. Vai. Tocca a te. Balliamo. La Tardelli si agita, eh. Vai Sara, dai, sali con la musica. Guilt's burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. Vuole andare in discoteca, dice, eh. Senti. Don't blame it on me. Allora, c'è un aperitivo. Facciamo un aperitivo così buttafuoco, dice che siamo tutti piritolli nella sceneggiatura. Com'è, femmine pittate, uomini? Uomini chic e femmine pittate. Uomini chic. Quella cosa aberrante di Renzi, lo storytelling. Storytelling, yeah. Ma perché non se ne va a zappare? Ma perché non se ne va a zappare? Adesso uno che fa le sceneggiature deve zappare. No, lui, Renzi. E va bene, lo storytelling è nobile. A lavare le scale. Comunque io volevo dirvi lo solo storytelling questo. È nobile, dai, fai sta bolla che è venerdì. È venerdì, vabbè, dai, parti, va. No, volevo solo informarmi che il Nasdaq, dopo praticamente 15 anni, ha toccato, anzi ha superato di pochissimo di nuovo il picco di quando ci fu la grande bolla del 2000 e ha superato i 5.048 punti, anzi per l'esattezza 5.056, ci ha messo 15 anni. Che cosa significa questo, Giovanni? Che se avete tenuto le azioni guadagni. Sì, ma che potrebbe anche esserci per molti analisti una nuova bolla. Vediamo cosa succede. Però spettacolare. Andate a vedervi il grafico della ripresa, è una cosa incredibile. Bene. Spettacolare davvero. Va bene, in attesa di vedere questo grafico, proviamo a sentire da Marina che cosa ci racconta oggi, qual è la storia dopo il giornale radio. Torniamo a parlare di resistenza anche oggi e ci occupiamo di Milano. Raccontiamo la cronaca di quei mesi fino all'epilogo di Piazzale Loreto. A raccontare quella Milano sono i milanesi, testimoni di quei giorni. Bene, per chi si fosse perso un pezzo di questa puntata può ascoltarla naturalmente in replica questa sera alle 23. Un consiglio a tutti di leggere un pezzo di Mario Secchi sul Foglio di oggi, davvero molto molto diciamo bello. Cos'è? Non so, vedi tu. È l'altra intervista a Mattarella, siccome è uscita un'intervista importante di Ezio Mauro, che saluto caramente, su Repubblica, noi del Foglio abbiamo fatto un'altra intervista. Intervista. Perché uno pensava che c'era la Boldrini, ma c'è di peggio. Prima della pubblicità sono solo canzonette di Edoardo Bennato. Sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera